principessa l'hip hop, forse un libro io ne sarei l'indice. Punti l'indice e va in barella. Per questo quando passo state muti come Ornella. Ne ho da vendere ma qui è un guaio. A voi che non capite un H ne sto porgendo un paio. Tipo Gaio ma col fuoco nelle iridi. Volete passarmi ma passeranno decadi. Suono grezzo, suono da fastreggio. Suono quello stile di cui vieto il noleggio. Bravi MC si nasce. Facevo beatbox col ciuccio quando ero ancora in fasce. In cuffia in casa e in compagnia di Davide. Sono fobia, sì, paura delle chiaviche. Leone quanto Sergio. Siamo il meglio del meglio ma tu preparati al peggio. Non come me, mai come me. Non lo puoi fare con me, non lo puoi fare come me. Non come me, mai come me. Non puoi copiare da me, non puoi copiare per me. Non come me, mai come me. Non lo puoi fare con me, non lo puoi fare come me. Non come me, mai come me. Non puoi copiare da me, non puoi copiare per me. Andiamo elementare come Sherlock Holmes. Se te l'ho già detto, don't try it, is it home. A volte sono ripetitivo, molto alternativo. E tutto questo non si lava con un detersivo. Lo stilo che consumo, con 29 facciamo 30, ora si fa 31. Mai come me, non con me, sei per te. Una ZG e fobia, resto intorno a te. Sarò papale papale, ma così mi deve accettare. Sono un papa che vado al papa, ma senza corte papale. Ho crisi esistenziale, ho crisi di identità. A 20 anni con uno di 40, ho crisi di mezz'età. Ma troppe verità, siamo alla rete dei conti. A noi giorni felici, e vi lasciamo fronzi. Troppi stronzi, che danno il fondo a Siena. Sarò biscotti, ma non dolci come Nera. Non come me, mai come me.